e l'ho amata tanto quest'aria che respiro ogni volta che lei era vicino a me, che lei era con me. Poi ho visto il fondo scuro dei miei occhi e quanto ancora più profondo sia irreale. Poi la vita mia è cambiata, per tanto tempo mi hai aspettato, mi sono accorto di te. Dal petto mi hai strappato via tristezza, rabbia e gelosia, ed hai cantato lì con me. Miracolo, benedizione, mi hai fatto ridere e giocare, e non so più farmi male quando sto con te. Non più quella speculazione, ma solo voglia di gridare, rimani ancora un po' con me, che forse non piango più, stasera non piango più, domani non piango più, con te io non piango più. E leggera cela in grano una quarta, quella musica mi alta e quella lacrima che scende, aspetta te l'asciugo io, mi hai sollevato dal burrone, di forza mi hai tirato su, distratto solo dal mio io, ti dico grazie amico mio. Cantiamo forte a squarciagola, che tanto tempo abbiamo ancora. Se odio Schopenhauer, sta rucchetta tu non te la prenderai. Decidi oggi dove andiamo, poi in fretta portami lontano, laddove non ci possono far male, che forse non piango più, stasera non piango più, domani non piango più, con te io non piango più. Adesso mi accompagni un po' nel viaggio immenso della vita, in questa strada piena di buche e sassi, però domani ancora solo noi, ancora in piedi solo noi, rimani ancora un po' con me, che poi non piangiamo più, stasera non piango più, domani non piango più, con te io non piango più. E poi non piangiamo più, stasera non piango più, domani non piangi più, con te io non piango più.